Allora, siamo al telefono con Vincenzo dei Vestfalia. Intanto, ciao Vincenzo, grazie mille di essere qui con noi. Ciao, buonasera, grazie a voi, grazie a voi. Allora, l'8 novembre è uscito il vostro primo album, Oz & Ends, che esce a 3 anni di distanza dalla vostra partecipazione X Factor, un po' il momento in cui eravate più sulla cresta dell'onda. Ecco, la domanda che ci viene è: perché non avete cavalcato quell'onda lì e avete aspettato invece adesso per il primo album? Allora, il momento di X Factor, che sicuramente sia stato un momento di crescita per il progetto in termini di visibilità, è stato allo stesso tempo, era un circuito in cui quello che almeno ora è l'album in cui con cui siamo usciti e la direzione in cui è andato il progetto, sicuramente non è tanto coerente, diciamo, tra le due cose. Cioè, è molto il disco che stiamo facendo uscire, un disco molto, molto proiettato sull'estero, dal punto molto internazionale, e quindi in un certo senso questo potrebbe essere un motivo, ma in realtà il motivo vero è che noi in concomitanza con X Factor abbiamo fatto uscire un EP che era figlio di quel momento, di quello che avevamo scritto, ed era un progetto ancora molto, molto giovane, e quindi con tanti input ancora ricevuti, ma ancora non con una definizione precisa di ciò che volevamo essere. Ci abbiamo messo degli anni e tanta dedizione, tanto tempo e tanta cura per cercare di capire veramente cosa volevamo essere a livello musicale e artistico, e dirigerci quindi in maniera molto centrata. Quindi ci è voluto del tempo, nella musica serve del tempo, bisogna lasciare che tutto il tempo possibile, perché molto spesso diciamo che il mercato e il mondo in cui ci ritroviamo ci porta anche ora molto nel mercato della musica a correre il più possibile, e invece noi siamo abbastanza contenti di aver aspettato e aver meditato questo album. Ottimo, tra l'altro è un album particolare, perché voi, diciamo, vi siete fatti conoscere con un sound che era un po' soul, jazz, R&B, anche del rock. Adesso è diventato più alternative rock, molto più, possiamo dire, un pestone, quindi cambia radicalmente sound. Come mai questa scelta? Come mai avete fatto questo percorso in questa direzione? Alla fine dell'uscita proprio dell'EP, dato che sì, sicuramente c'era una forte componente legata alla black music, ma c'erano veramente tanti input diversi a livello musicale, volevamo effettivamente capire cosa, raccogliendo, diciamo, le personalità eterogenee che abbiamo tra di noi, cosa poteva più accomunarci di quello che per ora avevamo costruito. E abbiamo preso alcune direzioni appunto specifiche dell'EP e le abbiamo ancora di più esagerate, andando a ricercare molto nel suono, andando a ricercare molto nella distorsione, andando a ricercare molto anche nella grinta, che era quello che riscoprivamo tanto insieme sul palco. In generale il comparto ritmico dei Vestfalia, batteria e basso, hanno una componente di tradizione rock abbastanza forte e sono molto massicci, e quella cosa lì sul palco si risentiva, lo sentivamo come energia insieme, e automaticamente siamo andati a sperimentare lì e alla fine ci siamo ritrovati qui. Il prossimo disco non dico che sarà totalmente diverso come l'altro P, ma sicuramente porterà ancora di più a uno sviluppo, a un lavoro di ricerca sonora che comunque sarà, penso, diverso da questo. Ok, quindi insomma in fase di sperimentazione continuo, possiamo definirvi. Sì, ci piace ricercarci insieme, insomma, proprio perché abbiamo quattro personalità umanamente, artisticamente molto diverse, quindi diciamo abbiamo da pescare, però penso che almeno questo è quello che noi percepiamo, che con questo lavoro abbiamo più definito veramente dove vogliamo essere, cosa vogliamo essere, ora c'è da navigare in quella direzione. Poi comunque è una rinascita un po' questo disco sicuramente per noi. Un gradito ritorno. Ecco, invece parlando dei testi, i vostri brani sono tutti in inglese e non è che raccontano proprio, abbiano delle trame, ma creano più delle suggestioni. Quindi come nascono i vostri testi e quali sono le tematiche che portate in quest'album? Diamo molta attenzione alla parte testuale, nonostante sia appunto in lingua inglese, quindi molto spesso a volte il pubblico italiano magari può coglierlo di meno, però ci abbiamo sempre dato valore e diciamo che il contesto in cui sempre si manifestano i brani non è tanto, o almeno non direttamente autobiografico, ma è qualcosa di più sociale tendenzialmente, come tipo di riflessione. e cerchiamo anche di crearci delle regole e dei temi. In questo caso le regole che ci siamo date hanno anche costituito quello che è il concept del disco. Cioè, inizialmente ci siamo dati la regola di partire ogni volta dalla suggestione musicale che avevamo o proprio con un'idea testuale di partenza, cercando di prendere un personaggio e di personaggio anche famoso o personaggio esistito, insomma, o di fantasia. Beh, vogliamo citarne uno perché c'è una canzone con un nome. Beh, quella è la più palese sicuramente, che Berlusconi, certamente. Abbiamo pensato un mondo, diciamo, con Berlusconi donna o comunque con il potere portato in quella direzione, il tipo di suggestione che ci sarebbe stato, ma sì, oltre a lui, per esempio, la focus track del disco Sunflowers invece è una riflessione più dal punto di vista di Van Gogh, e quindi lì è molto centrato su di lui, ma ce ne sono diversi, insomma. E appunto ci siamo dati come regola questa, cioè cercare di prendere un personaggio e cambiare il punto di vista, cercare di dargli una sfumatura diversa, e alla fine questo poi si è riproiettato in un luogo che è quello del negozio di cianfrusaglie di antiquariato, dove questi personaggi sono una sorta di cianfrusaglia abbandonata che sta in una sorta di limbo esistenziale che cerca di sopravvivere. Un po' un trippone, diciamo, però è appunto, quindi cerchiamo di darci delle regole, cerchiamo di fare delle riflessioni insieme. E direi che il risultato è molto, molto interessante. Grazie. Passando invece alla fase live, voi avete suonato negli ultimi anni in giro soprattutto per l'Europa. Ecco, questi tour internazionali hanno influenzato il vostro sound? Avete magari fatto delle scoperte che vi hanno anche cambiato magari il modo di approcciarvi alla musica? Sì, assolutamente. Il motivo per cui abbiamo anche proseguito verso questa direzione, perché è un gruppo che nasce per il viaggio, come effettivamente il nome del famoso van, e siamo effettivamente fatti per viaggiare e scoprire sia luoghi, persone che arricchiscono tantissimo cioè comunque non ci sarebbe stato questo concept come luogo se noi non avessimo suonato in questo negozio di antiquariato in Germania nel primo tour che abbiamo fatto nella primavera del 2023. Da quel negozio di antiquariato, in cui non solo abbiamo suonato ma ci abbiamo dormito sul palco di quel negozio di antiquariato, ci siamo così tanto coinvolti nell'ambiente che abbiamo capito che quello doveva essere il luogo del concept. E oltre a questo, i tour che abbiamo fatto in UK ci hanno portato tantissime scoperte a livello musicale interessanti e tantissimi confronti con artisti della scena veramente interessanti, e quindi ci siamo sempre più coinvolti in quella direzione. E penso che andremo avanti tutta su quello, cercheremo di viaggiare sempre il più possibile, di portare la nostra musica in giro per l'Europa e anche in Italia, lo faremo anche quello. Ecco, a proposito di tour, voi presenterete l'album, intanto il tour che è iniziato l'8 novembre da Modena, passerà anche da Bologna, quindi diciamo già che il 7 dicembre sarete al DAS di Bologna, e sarà soprattutto però un tour all'estero anche questa volta. Come mai secondo te la vostra musica, il vostro modo di fare musica fatica a trovare magari spazi nel nostro paese? Credo che in questo momento storico in Italia ci sia anche un certo tipo di apertura verso, cioè l'Italia sta diventando sicuramente un pochino più aperta a livello internazionale, sia di esportazione con i propri artisti che di importazione e di ascolti del pubblico, perché il pubblico sta cambiando, ovviamente si sta globalizzando sempre di più, ma comunque l'affezione verso la musica italiana scritta in italiano resta sempre al centro, ed è anche molto bella questa cosa, è una cosa che comunque porta ad avere nel bene o nel male sicuramente una personalità riconoscibile nella musica italiana. E quindi la prima cosa è la lingua, assolutamente. Oltre a questo, il tipo di sound che portiamo, che è di base un sound molto, che raccoglie una nicchia molto piccola in Italia, quello dell'alternative rock, viene ancora di più all'estero, è un po' meno una nicchia. Ovviamente estero è una parola un po' troppo ampia, però diciamo in alcuni contesti europei come UK, Germania, Francia, hanno sicuramente una nicchia un pochino più ampia e che permette di avere maggiori luoghi, maggiori spazi, maggiori possibilità per suonare. Ovviamente questo è proprio un problema poi italiano, anche mancano un pochino gli spazi per suonare a prescindere in Italia, quindi è difficile organizzare un tour che vada dal lunedì alla domenica, ma bisogna dirottarsi solamente per i weekend. Quindi c'è un problema proprio poi italiano, diciamo, della musica dal vivo, che dovrebbe migliorare, ma lì parte tutto dal pubblico. E quindi, insomma, il punto di partenza comunque, la risposta è il pubblico. Vediamo un po' come andrà intanto questo concerto il 7 dicembre al DAS. Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ricordiamo, Westfalia, Odds and Ends, il primo album uscito l'8 novembre 2024. Ti chiedo se per salutarci hai un brano tratto da quest'album, quel che vuoi proporci e proporre a chi ci ascolta da casa. Vi propongo Sunflowers, che è appunto la focus track del disco, è una delle mie preferite. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie mille.